Negli ultimi anni della sua vita, quando era mio padre ad amministrare le proprietà e non abitava con noi e criticava qualsiasi cosa, si sparse la voce che fosse un oracolo. I vicini, quando i loro figli erano sulla soglia di una fase importante della vita, glieli mandavano e lui li riceveva proprio sotto questo pergolato, somministrando consigli eloquenti e dettagliatissimi con la sua voce baritonale che rimbombava nel boschetto e mi riempiva di un vago senso di colpa mentre giocavo silenziosa fra i cespugli per timore di disturbarlo. Immaginavo che leggesse le sue istruzioni ad alta voce, tanto monotono e ininterrotto era quel suo eloquio maestoso. I giovanotti uscivano dal pergolato fradici di sudore e pieni di punture di zanzara, con un'espressione di smarrimento in volto. Poi, quando l'impressione delle sue parole si era smorzata e con salutare rapidità avevano dimenticato tutto quel che aveva detto e persino la sua presenza, si dedicavano seriamente al compito interessante e necessario di fare le loro esperienze. Una volta, però, accadde un fatto molto brutto che portò immediatamente alla fine repentina dei rapporti di amicizia con i nostri vicini. Il figlio del vicino fu dunque condotto nel pergolato e ivi lasciato secondo l'usanza. Forse capitò nel momento critico fra il caffè e la lettura del Krautzeitung, quando il nonno sonnecchiava, oppure fu più coraggioso degli altri e cercò di parlare. Comunque sia andata, dopo qualche minuto, come al solito, stavo giocando nei paraggi, sentii la voce del nonno raggiungere toni talmente acuti che smisi di colpo di giocare e cominciai a tremare. Era infuriato, gridava: «Vado retro, Satana!» Al giovanotto non fu dato altro consiglio ed egli si affrettò ad accettarlo, poiché subito dopo lo vidi sbucare dai cespugli molto pallido, ma con una strana piega delle labbra che mi rassicurò. Questo episodio deve essere accaduto poco prima che morisse, perché adesso ho l'impressione che sia morto subito dopo e credo che aver mangiato dei granchi abbia affrettato la sua dipartita. Il nonno i granchi non li digeriva proprio e il dottore glieli aveva sempre proibiti perché pericolosissimi. «E che? Dovrei farmi mettere nel sacco da una manciata di granchi?» chiese indignato al dottore, lui che i granchi li amava appassionatamente e non si era mai fatto mettere nel sacco da nessuno. «No, signore, ma lo scontro non è equilibrato. Vi scongiuro di non cimentarvi nuovamente», ribatté il dottore. Così, quella sera il nonno fece cucinare dei granchi e si sedette a tavola con lo sguardo scintillante di chi è determinato a rischiare il tutto per tutto. I granchi vinsero e lui perse. Era un uomo giusto, commentarono i vicini, tranne il dirimpettaio che non era più suo amico. E se lo avesse voluto, sarebbe diventato un grand'uomo. Lo seppellirono con estremo rispetto e all'improvviso la nostra casa fu inondata di sole e gli uccelli non furono più le uniche creature che cantavano e il pergolato, un tempo santuario di oracoli delfici, si trasformò in una dimora di limacce. Così, riflettendo sulla stranezza della vita e sull'inevitabile trionfo dell'insignificante e del minuscolo su ciò che è grande e importante, esemplificato in questo caso da fin troppo facile avvicendarsi delle limacce al nonno come inquiline del pergolato, ho superato pian pianino la curva del sentiero e ho imboccato il viale che costeggia l'alto muro che separa il giardino dall'orto. Qui, in questo punto riparato, il nonno coltivava i suoi fiori preferiti. E qui i cugini erano intervenuti per eliminare le rose rampicanti che ammantavano il muro di bellezza. Al loro posto regnavano alberi da frutto perfettamente potati a spalliera, disposti a intervalli regolari. Evidentemente i cugini conoscevano i pregi di tale esposizione, poiché nella bordura, ai piedi del muro, dove mio padre a novembre faceva seminare le violacciocche gialle che avrebbero diffuso il loro profumo in primavera, c'era un pullulare fitto di... Mi sono chinata per vedere meglio. Sì. Erano ravanelli. Mi è venuto da piangere e forse è stata l'unica occasione in cui qualcuno abbia mai pianto per dei ravanelli. Anche il mio amato padre, l'ho amato appassionatamente, prediligeva quelle aiuole e trascorreva i pochi momenti d'ozio di una vita indaffarata godendosi i fiori che vi crescevano. Non aveva tempo per dedicarsi ai piaceri del giardinaggio se non scegliendo quali piante far coltivare al giardiniere. Ma al termine di una giornata di lavoro passeggiava sempre lungo il muro di cinta e si sedeva a fumare il più vicino che poteva ai suoi fiori per rilassarsi. È il più puro degli umani piaceri, il più grande sollazzo dello spirito, era solito citare, poiché non odiava soltanto il Krautzentung. Quando, al termine di una giornata calda passata nei campi, tornava nella sua fragrante oasi di pace, soddisfatto abbracciava il giardino con lo sguardo. Ebbene, pareva che i cugini non la pensassero affatto come lui. Dotati di minore fantasia, credo che si sarebbero definiti gente pratica, erano evidentemente convinti che sia impossibile nutrirsi di fiori. Il loro spirito non aveva bisogno di ristoro, contrariamente al corpo, che invece ne richiedeva molto, perciò i ravanelli erano più preziosi delle violaciocche. La mia infanzia non è certo stata priva di ravanelli, ma la loro coltivazione era pudicamente relegata negli angoli bui degli orti, nelle vecchie serre dei cetrioli, e nessuno avrebbe mai permesso che si intrufolassero fra i fiori. Eccoli, che profanavano un'aiuola che un tempo era stata bellissima, e tutto perché non ero un maschio. Che sfortuna tremenda non essere nata maschio, e che solitudine, che tristezza quel giardino di fantasmi. L'aiuola di Ravanelli, con tutto ciò che rappresentava, aveva trasformato la mia gioia iniziale in dolore. Il vialetto e il muro mi ricordavano troppo mio padre, tutto ciò che era stato per me. Quello che sapevo di valido me lo aveva insegnato lui. La felicità che avevo vissuto mi era venuta da lui. In tutti gli anni che avevamo abitato sotto lo stesso tetto, solo una volta era accaduto che avessimo opinioni diverse e finissimo per litigare. Fu l'unica volta che lo abbia mai visto severo. Avevo 4 anni, era domenica e pretendevo di essere portata alla messa. Lui disse di no, perché non ero mai stata in chiesa e la liturgia tedesca è lunga e stancante. Lo implorai. Disse di no ancora una volta. Insistetti, promisi che mi sarei comportata bene, sfoggiai un'attitudine alla devozione e una determinazione tali che alla fine cedette e ci incamminammo mano nella mano felici e contenti. Giunti davanti all'entrata della chiesa, mi guardò negli occhi e mi disse: «Adesso vada bene, Elizabeth. Non puoi uscire a metà della funzione. Siccome hai tanto insistito per essere portata a messa, dovrai rimanere seduta fino alla fine». «Sì», promisi colma di entusiasmo, ed entrai ardendo dal fuoco sacro della devozione. Furono le mie gambette corte che ciondolarono per 2 ore sospese fra la panca e il pavimento, l'arma prescelta da Satana per distruggermi. Nelle chiese tedesche non ci si inginocchia e raramente si sta in piedi, si rimane seduti a pregare e cantare in tutta comodità. Tuttavia, se si hanno 4 anni, una tale mobilità diventa presto una tortura. Cose terribili accadono nelle gambe, cose sconosciute, strani pizzicori, formicolii, guizzi che salgono e scendono. Improvvisamente perdi la sensibilità e temi che le gambe si siano staccate e siano cadute, ma non osi guardare. Poi ricominciano i pizzicori, le fitte, i bruciori, solo più forti di prima. Pensai di essere gravemente malata, perché mai prima di allora le mie gambe si erano comportate così. Mio padre, seduto accanto a me, era completamente assorbito nel canto di un corale che sembrava non finire mai. Ogni strofa terminava con un alleluia prolungato, dopodiché l'organo proseguiva da solo all'infinito. L'orologio dell'organista diceva 2 minuti esatti, ma sbagliava, e poi arrivava la strofa successiva. Siccome mio padre era titolare della prebenda, prestava estrema attenzione al sermone e ai canti, consapevole che gli occhi di tutti i fedeli presenti nella chiesetta erano puntati sulla nostra panca. All'inizio provai a imitarlo, ma il comportamento delle mie gambe era diventato talmente preoccupante che non mi limitai più a lanciargli occhiate imploranti, aspettando che mi notasse. Allungai la mano e lo tirai per la manica. «Alleluia!» cantava lento e preciso, senza alzare la voce né cambiare espressione. Le labbra che si muovevano appena e lo sguardo puntato al soffitto nell'attesa che l'organista, il postino del villaggio, finisse il suo assolo. «Non ti ho forse detto di rimanere seduta e di non muoverti, Elizabeth?» «Sì, ma... E allora stai seduta!» «Ma io voglio andare a casa!» «Onsen!» Iniziò la strofa successiva e mio padre riprese a cantare con rinnovato vigore. Cosa potevo fare? Mettermi a piangere? Cominciai a temere che su quella panca ci sarei morta, tanto erano bizzarre le sensazioni che avevo nelle gambe. Se avessi pianto, cosa mai avrebbe potuto farmi mio padre? L'istinto fulmineo dei bambini mi suggerì che in chiesa non avrebbe mai osato mettermi in castigo nell'angolo, né mi avrebbe frustata davanti a tutti. L'intero villaggio ci osservava. Lui non aveva margine di manovra, avrebbe sicuramente ceduto. Perciò gli tirai la manica con più forza di prima e mi preparai a esprimere con voce squillante la volontà di essere portata immediatamente fuori di lì. Ma mio padre era pronto per quella mossa. Senza smettere di cantare, senza mutare la sua espressione compunta, lentamente fece scendere la mano e mi diede un pizzico molto forte. Non un pizzicotto scherzoso, bensì un pizzico vero, serio, impossibile da scambiare per qualcos'altro. Mai avrei immaginato una tale reazione. Continuò a cantare sereno la strofa successiva. Per un istante rimasi paralizzata dallo stupore. Dov'era finito mio padre? L'uomo benevolo, il compagno di giochi, l'adoratore, l'amico. Bruciando di dolore, ero una bimba pienotta e soda e tremendamente ferita nei sentimenti, aprì la bocca per lanciare un bel grido vero, ma mio padre mi sussurrò all'orecchio, con voce chiara e scandita in modo che capissi bene, senza distogliere lo sguardo dal soffitto. Le labbra che quasi non si muovevano. Elizabeth, se gridi ti pizzico fino a farti scoppiare. Poi terminò la strofa senza scomporsi minimamente. Che Satana mi divori e che gli angeli cantino alleluia. Da quel giorno non ci furono più contrasti tra noi. Se prima lui era sempre stato il mio volenteroso schiavo, da quella domenica toccò a me essere completamente alla sua mercé. Con un sorriso e un brivido mi sono allontanata dalle aiuole e dai ricordi che evocava, incamminandomi verso la porta che conduce all'orto dove una volta si trovava il mio piccolo giardino. Era aperta e per un momento ho esitato sulla soglia trattenendo il respiro in ascolto. Il silenzio era immutato, il luogo sembrava deserto. Non fosse stato per i ravanelli coltivati con cura e per le impronte fresche sull'erba del sentiero, avrei detto che la casa era disabitata. Le impronte erano quelle di un bambino. Mi sono chinata per osservarne una particolarmente nitida, quando il gracchiare sonoro di una cornacchia annoiata in cima al muro mi ha fatto sobbalzare come mai mi è capitato in vita mia, ricordandomi che stavo invadendo una proprietà privata. Avevo senza dubbio i nervi a pezzi, perché ho raccolto la gonna e sono scappata, neanche fossi inseguita da un esercito di fantasmi e cugini, correndo a perdifiato fino a ritrovarmi nel punto dove una volta c'era il mio giardino. Ti stai divertendo, Elizabeth? Ha chiesto beffardo lo spiritello che si definisce la mia anima, ma io ero troppo trafelata per rispondergli. Adesso mi trovavo in un angolo molto sicuro. Il muro lo separa dal giardino principale e dalla casa. A nord confina con un frutteto ed era assai improbabile che in un pomeriggio come quello qualcuno venisse a controllare. Il mio piccolo pezzo di terra, il teatro dei miei sforzi più strenui, era diventato un giardino roccioso. Da bambina, armata della speranza più sfolgorante, avevo scavato nella fredda terra di questa aiuola esposta a nord dove il sole non splendeva mai. Ne consacravo tutti i miei risparmi e siccome i bulbi costavano cari e la paghetta settimanale era esigua, in un'occasione che si rivelò fatale fui obbligata a chiedere un prestito a Fräulein Wundermacher, consegnandole così la mia indipendenza. Fu una resa completa al suo potere, che durò fino al compleanno successivo e mi costrinse a adottare in sua presenza modi e parole artificiosamente affabili mentre la mia anima gridava ribellione. Alla fine non venne su un bel niente. La fatica di vangare e annaffiare, la trepidante solerzia con cui mi ero avventata sulle erbacce, la lettura attenta dei libri di giardinaggio, i progetti che erano nati mentre seduta sulla panchina ammiravo speranzoso il terreno perfettamente curato da cui presto sarebbero germogliate mille piantine. Gli pfennig spesi a piene mani, la mia posizione umiliante nei confronti dei Fräulein Wundermacher, tutto inutile. Il sole non splendeva in quell'angolo, nulla vi cresceva. Il giardiniere, personaggio onnipotente in quegli anni, ne aveva ceduto l'appezzamento proprio perché non ne ricavava nulla di buono ed era convinto che fosse adatto agli esperimenti di una bambina. Ricordo distintamente l'immensa gratitudine che provai per quel dono, così come ho ben presente l'imperturbabilità con cui accolse i ringraziamenti e continuò nelle sue faccende. Per più di un anno lavorai e aspettai, osservando perplesso il frutteto in pieno rigoglio, a pochi metri dalla mia aiuola. Nonostante il mio giardino fosse ben concimato e annaffiato, mentre nessuno si curava del frutteto, dalla mia parte spuntarono solo germogli deboli e tristi, che rimanevano stazionari oppure pian piano rimpicciolivano fino a scomparire. Una volta chiese timidamente al giardiniere se poteva aiutarmi a decifrare quei segni misteriosi, ma era un uomo sempre indaffarato, non aveva tempo per darmi risposte, perciò si liberò di me dichiarando che il giardinaggio non si impara in un giorno. con che forza mi è rimasto impresso quel pomeriggio, la forma delle nuvole lente, il profumo delle cose della primavera. E io che tornavo sconsolata alla mia panchina traballante, chiedendomi per l'ennesima volta quale fosse il dettaglio che faceva la differenza tra il mio appezzamento e il frutteto dall'altra parte. Gli alberi da frutto, ben distanti dal muro e dalla fredda ombra che proiettava, agitavano i rami carichi di fiori nel vento e nel sole, soddisfatti e indifferenti, in un modo che mi riempiva il cuore d'invidia. Crescevano alla base di una collinetta che li proteggeva e di tale protezione si gloriavano insolenti nella loro perfezione bianca e rosa. Era maggio e il mio cuore sanguinava al pensiero dei tulipani che avevo piantato a novembre e che da allora non avevo mai visto. Il resto del giardino era un trionfo infuocato di tulipani. Alle mie spalle, oltre il muro, ce n'erano file e file, calici di diafana bellezza, come un anello tempestato di gemme posato sul prato. Cosa non c'era oltre quel muro? Tutto andava di là per crescere e fiorire nel modo preconizzato dai miei libri di giardinaggio. Nel frutteto felice, altre creature di cui nessuno mai si occupava e preoccupava prosperavano allegre sotto gli alberi. I narcisi spuntavano sicuri in mezzo all'erba. I crochi sbirciavano rasoterra curiosi. I bucaneve denudavano le loro testoline nei primi tremanti giorni di primavera. Soltanto nella mia amata aiuola regnavano il vuoto e la bruttezza perpetui. Ecco a cosa pensavo piangendo in quel giorno radioso di primavera. Fu allora che passò di lì un apprendista, un ragazzo che mi aveva visto molte volte intenta a scavare. Vide le mie insolite lacrime e rimase colpito dalla differenza fra il mio giardino e l'abbondanza e lo splendore circostanti. Perciò si fermò, posò la carriola in mezzo al vialetto e osservò che non ci si poteva aspettare di cavare sangue da una rapa. L'apparente irrilevanza di quell'affermazione mi fece piangere ancora più forte. Lacrime amare di dolore vilipeso, ma lui insistette e in mezzo al veletto improvvisò una lezione sui rapporti tra i muri esposti a nord, i tulipani e il sangue che vorremmo cavare dalle rape. Le mie lacrime si asciugarono e mi ritrovai ad ascoltare le sue parole con attenzione. Il succo del discorso era che il giardiniere capo mi aveva vergognosamente ingannata, perché era una persona priva di principi e inaffidabile che da quel momento in poi dovevo evitare come la peste. Adesso mi trovavo nel punto esatto in cui il gentile garzone mi aveva edotta e la scena mi si presentava con nitidezza prodigiosa. Eppure, quanto era diverso il presente, com'era rimpicciolito tutto quanto. Era questo il vasto frutteto che mi era parso estendersi a perdita d'occhio fino ai cancelli del paradiso. Credo che qualsiasi bambino che passa molto tempo da solo attraversi un periodo in cui teme l'arrivo imminente del giorno del giudizio. Ebbene. Io ero convinta che quel giorno le schiere celesti sarebbero scese proprio in quel campo, file scintillanti di angeli giù per il pendio che calpestavano i narcisi e riempivano il frutteto di canti di giubilo mentre cercavano allegri le pecorelle in mezzo alle capre. Ovviamente io ero una pecorella e la governante e il giardiniere erano capre, per cui la vicenda terminava nel modo per me più soddisfacente. Adesso, osservando quella collinetta, ricordavo le mie visioni e mi veniva da ridere davanti all'esiguità di un luogo che mi era sembrato tanto vasto da contenere tutte le schiere celesti. E anche qui i cugini erano intervenuti. Un giardino roccioso aveva preso il posto della mia aiuola. Sulle erbe i fiori spontanei del frutteto erano passate vanghe e zappe e gli intervalli tra gli alberi erano piantati a ribes e sedano in filari ordinati affinché nessun cuginetto futuro potesse sognare schiere di angeli che gli venivano incontro dai campi di narcisi. Forse era meglio crescere senza visioni del genere. Infatti, più passava il tempo, più certi dubbi imbarazzanti mi stringevano il cuore con le loro gelide dita, oscure incertezze riguardo all'esatta posizione del giardiniere e della governante, ansiosi interrogativi quanto alla loro sorte finale se si fossero rivelati pecore e non capre. In tal caso, cosa sarei stata io? E se ci fossimo ritrovati tutti e tre nello stesso recinto? All'epoca mi sembrava plausibile. E non mi sarebbe piaciuto per niente. Ora, io domando e dico: che genere di persone possono collocare un giardino roccioso tra le verdure e i cespugli di ribes? Mi sono chiesta, scuotendo la testa davanti a quei cambiamenti. Il giardino roccioso è, nel mondo del giardinaggio, un ambiente che richiede una sensibilità finissima. È facilissimo fare errori di progettazione, molto più che con altri schemi di coltura. Non ci sono vie di mezzo. O si ha un successo strepitoso. O è il fallimento totale, o un risultato affascinante o una completa assurdità. Non c'è via di mezzo tra il sublime e il ridicolo, nei giardini rocciosi. Scuotevo la testa in segno di disapprovazione, persa nei miei ragionamenti, quando uno scalpiccio affrettato mi ha sorpreso, facendomi voltare di scatto, giusto in tempo per sentirmi travolta da qualcuno che sbucava dalla nebbia per venirmi addosso. Era una ragazzina di circa 12 anni. Salve, ha detto in un ottimo inglese. Siamo rimaste a guardarci stupite. Credevo fosse Miss Robinson. Non si è neppure scusata per avermi quasi gettato per terra. Lei chi è? Miss Robinson? Miss Robinson? Ho detto fissandola, mentre una miriade di ricordi scalpitavano nella mia mente. La Miss Robinson che ha sposato un missionario e si è trasferita in quel posto dove poi lui è stato mangiato? La ragazzina ha cominciato a fissarmi. Mangiato? Sposata? Miss Robinson sarebbe sposata con uno che è stato mangiato e non ce l'ha mai detto. Accidenti, che storia! È scoppiata a ridere buttando la testa all'indietro. Non la smetteva più e il giardino si è animato tutto come una volta. Zitta, per carità, pestifera creatura! L'ho implorata, afferrandola per un braccio. La sua allegria rumorosa mi terrorizzava oltre misura. Smettila di strepitare in questo modo tremendo! Potrebbero scoprirci. Di colpo si è zittita e ha chiuso la bocca con uno scatto, sgranando ulteriormente gli occhietti neri, tondi e scintillanti come bottoni di stivale. Scoprirci, ha detto tutta ringalluzzita. Ah sì? Anche tu hai paura di farti acchiappare? Allora è un gioco. Con le mani affondate nelle tasche del cappotto si è messa a saltellare per il gran divertimento. Mi ha fatto pensare a un pingue agnellino nero che ruzza intorno alla mamma pecora passivamente attonita. Era proprio giunto il momento di avviarsi senza indugi verso l'uscita, perciò ho fatto per incamminarmi. La ragazzina ha smesso di saltellare e mi ha sbarrato la strada. Chi sei? Ha chiesto, squadrandomi dal cappello agli stivaletti, interessatissima. Ritenendo che mi si rivolgesse in modo fin troppo diretto e impertinente, ho cercato di evitarla passando di lato con un'espressione che voleva essere altera. Ma lei, scattando come una molla, mi ha sbarrato nuovamente la strada. Chi sei? Ha ripetuto, con sguardo amichevole ma deciso. Oh, insomma, sono una pellegrina, ho risposto disperata. Una pellegrina? Sembrava colpita e ne ho approfittato per riprendere il cammino verso la porta da cui ero entrata. Una pellegrina. Mi seguiva, senza staccarmi gli occhi di dosso. I pellegrini non mi piacciono, sono quelle persone che vanno sempre in giro e hanno problemi ai piedi, giusto? Tu hai problemi ai piedi? Per nulla, ho replicato sdegnata, allungando il passo. Miss Robinson dice anche che non si lavano mai. Tu non ti lavi, vero? Non si lavano. Ma che brutte maniere ti hanno insegnato. Lasciami in pace, devo scappare. Anch'io devo scappare, ha detto lei tutta allegra. Miss Robinson sarà sulle nostre tracce. Quando ti ha incontrato stava per prendermi. Si è messa a correre con me. Il pensiero di Miss Robinson e le nostre calcagne mi ha messo le ali ai piedi. Mi sono spogliata dell'ultimo brandello di dignità e ho divorato il sentiero. La ragazzina non ne voleva sapere di rimanere indietro e nonostante ansimasse e avesse la faccia di tutti i colori, riusciva persino a parlarmi. Ero stanchissima nel corpo e nella mente, per tutti i traumi subiti, per il viaggio, per la scarsità di cibo, e mi toccava pure correre perché quella ragazzina pestifera aveva voglia di giocare a nascondino invece di andare a lezione. Ma che divertimento! Parlava a scatti. Ma dobbiamo proprio correre tutte e due dalla stessa parte? Ho chiesto, nella vana speranza di liberarmi di lei. Certo, il divertimento è tutto lì. Io e te ci intendiamo. No, no, di questo ero convinta, nonostante la confusione mentale causata dalla situazione. Neanche a me piace lavarmi. D'inverno poi è orribile. Mi fa screpolare la pelle. Ma a me non dispiace lavarmi. Ho protestato debolmente, con le poche energie che mi rimanevano. Oi, boh, ha esclamato, guardandomi negli occhi e sbottando in quella che si definisce una risata sguaiata. La ragazzina si permetteva una familiarità alquanto rivoltante. Abbiamo varcato la porta, mettendoci in salvo e lasciandoci alle spalle i ravanelli. Ora eravamo nel boschetto che conoscevo bene, un luogo dove era facile nascondersi nell'intrico dei sentieri. Mi sono fermata un momento per guardare intorno e ascoltare. La ragazzina ha aperto la bocca per dire qualcosa, ma con grande prontezza gliel'ho tappata con il mio manicotto di pelliccia. Silenzio di tomba. fatta eccezione per gli ansiti e tentativi di liberarsi da parte sua. «Non ci sono rumori!» ho sussurrato lasciandola andare. «Allora, cosa volevi dirmi?» l'ho squadrata con espressione severa. «Volevo dirti che non serve a niente dire che ti lavi, con il naso che ti ritrovi.» «Il naso che mi ritrovo, che vuoi dire?» ho replicato offesissima. Me lo sono toccato delicatamente, ma non ho sentito nulla di strano. Povera Miss Robinson, che brutta vita le tocca fare! Ero profondamente disgustata. La ragazzina ha sfoggiato un sorriso fatuo, quasi le avessi fatto un complimento. È tutto verde e marrone. Ce l'hai sempre così? Ha chiesto indicandolo. Mi è tornato in mente l'abete vicino all'entrata e il bacio appassionato che le avevo dato poco prima. Sono arrossita. Non viene via? Certo che viene via, ho replicato corrucciata. Perché non strofini? Ho ricordato di aver lanciato il fazzoletto nei cespugli e sono arrossita di nuovo. Per favore, mi presteresti il tuo fazzoletto? Ho chiesto umilmente. Il mio l'ho perso. Si è messa a rovistare in sei tasche diverse e alla fine ha tirato fuori un fazzoletto che solo a guardarlo mi ha fatto tornare bambina. Riconoscente l'ho preso e ho strofinato con energia mentre lei mi guardava con grande interesse e mi dava consigli. Strofina lì, ora è a posto. Ancora un pochino a destra? Sì, lì, ecco. Hai tolto tutto. Sei sicura? Non c'è più verde? Ho chiesto ansiosa. No, ora è tutto rosso, ha risposto allegra. Voglio tornare a casa. Dalle mie care dolci bambine che non mi criticano mai, che mi ammirano, che accettano il mio naso come modello di come deve essere un naso, che lo trovano bello di qualunque colore sia. Ho pensato sconvolta da quell'osservazione. Le ho restituito bruscamente il fazzoletto e ho ripreso a correre verso l'uscita. Ci ha messo qualche secondo a riporlo di nuovo nella tasca perché era grande come un lenzuolo, poi mi ha raggiunto. Dove vai? Ha chiesto, vedendomi svoltare per il vialetto che conduce alla porticina. Esco da quella porta, ho risposto con fermezza. Ma non puoi! È proibito! Avevo afferrato il cavistello, ma sentendo la parola proibito, l'ho lasciato andare, tanto potente è la presa che gli antichi usi del luogo hanno su di me. In quell'istante, una voce ormai vicina ha attraversato la nebbia e mi ha inchiodato sul posto. Elisabeth! Elisabeth! Vieni subito a lezione! Elisabeth! È Miss Robinson! Ha sussurrato la ragazzina, gli occhi scintillanti per l'eccitazione. Mi ha fissato e, impaziente, ha ripetuto la domanda iniziale. Chi sei? Oh, sono un fantasma! Ho gridato convinta, con le mani sulla fronte, guardando attorno con espressione terrorizzata. Ma va? Sono state le sue ultime parole, prima che uno scricchiolio di ramette annunciasse l'avvicinarsi della governante e io, presa dal panico, spalancassi la porticina con la forza della disperazione e la richiudessi alle mie spalle per lanciarmi in una corsa perdifiato nei campi velati dalla nebbia. L'almanacco di Gotha riporta che nel 1885 il cugino possidente ha sposato la figlia di un certo Mr. John Stone, inglese, e che l'anno successivo hanno avuto una figlia, oggi l'unica, di nome Elizabeth.